dai propri figli. Si sono costituite in gruppo, avevano già alcune competenze in tecniche di trasformazione di prodotti agricoli. L'associazione Stretta di Mano, accompagnata anche da una ONG italiana, CIS, presente sul territorio, le sta accompagnando per consolidare il gruppo, per arrivare a dei prodotti che rispondano alle esigenze del mercato locale, che rispondano a dei criteri di igiene e di trasformazione adeguati, e soprattutto a avviare una produzione che risponda a dei criteri di sostenibilità economica e finanziaria. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo dunque di Senegal e di Italia. Con noi Marzia Sica, project manager per Fondazioni for Africa, di un progetto interessante, complesso, di cui continuiamo a parlare, ripartendo dunque dall'accesso alla finanza, al sostegno finanziario, che naturalmente è uno dei fattori più complessi ma anche più dinamici che si sviluppano in questa fase in Africa. Marzia Sica ci stava raccontando dunque dei piccoli progetti. Quanto è complesso per delle donne di un villaggio rurale africano accedere ai soldi, ai finanziamenti che servono a sviluppare un'attività? Molto complesso, perché esistono soprattutto nei grandi centri, a Dakar e in altre grandi città senegalesi, delle banche che però ovviamente prestano i soldi anche per avviare delle piccole attività economiche con delle condizioni che sono prettamente bancarie. Esistono però anche degli altri soggetti, sono i soggetti organizzazioni di microfinanza che invece riescono a prestare risorse anche senza, diversamente, in maniera diversa, con condizioni diverse rispetto alle banche. Ecco, voi avete integrato una di queste strutture proprio per, diciamo, completare un percorso che non può essere solamente rivolto all'ambito rurale piuttosto che a quello culturale. Sì, noi operiamo soprattutto in ambito rurale in Senegal. Il fenomeno della migrazione parte anche, non solamente, ma soprattutto dall'ambito rurale. Prima lei ha citato Louga, che è una delle città dalle quali proviene la maggior parte dei migranti senegalesi in Italia, che è in ambito rurale. E il nostro progetto ha continuato delle attività realizzate in ambito rurale da organizzazioni non governative italiane e da soggetti della società civile senegalese, con finanziamenti precedenti dalla cooperazione decentrata, dalla cooperazione multilaterale, dalla cooperazione italiana. L'aspetto importante è quello di legare attività che vogliono promuovere attività rurali, questo anche al fine di limitare il più possibile il rischio di trasferimento delle persone verso la città o verso altri stati africani e europei, e dare loro la possibilità di avviare attività agricole o attività complementari e connesse attraverso il credito. Questa possibilità è data attualmente da organismi di microfinanza. Secondo noi è importante che questi organismi di microfinanza si mettano in rete per essere più solidi, che siano più professionali e soprattutto che abbiano prodotti che effettivamente rispondano alle esigenze di attività economiche realizzate in ambito rurale. E questa è un po' la sfida del nostro progetto. Noi sosteniamo 3 unioni di microfinanza in diverse parti del Senegal. Unioni vuol dire gruppi di organizzazioni di microfinanza, tutte con la mission di unire le attività economiche che si svolgono in zona rurale con l'opportunità del credito.